2 luglio 391. Non riuscendo a chiudere occhio, borsone a tracolla, sono partito con il buio all'ora prima. È una notte rischiarata da una luna piena che mi permette di percorrere facilmente il viottolo che si snoda tra il canale che arriva dal Nilo e le mura che proteggevano Alessandria tanti anni fa. Il Serapeo è situato sulla collina a occidente della città, per cui devo attraversarla quasi tutta. Quando sono sopra il ponte del lago Mareotide, vedo due pescatori che stanno sistemando le reti su una piccola barca, costruita con piante di papiro. Se la vedesse Ipazia, ci si sarebbero potuti ricavare almeno un centinaio di rotoli. I due uomini, alla luce di una lucerna, imprecano a voce alta perché la rete si era aggrovigliata. Le loro urla provocano l'abbaiare di un cane e mi chiedono di andarli ad aiutare. Tiro dritto, senza nemmeno rispondere. Guardo alla mia destra per ammirare la larghissima via del Soma che taglia tutta la città, incrociando l'altra grande arteria, via Canopica, entrambe lumeggiate con lanterne. Affretto il passo perché il blu del cielo sta diluendo in un azzurrino chiaro. L'alba si avvicina, i clienti cominciano ad abbandonare i lupanari e gli antri dove hanno giocato a dadi per l'intera notte. Il cane, che poco fa aveva intrapreso il duetto con i pescatori, ha preso a seguirmi e ancora insiste quando comincio a intravedere, nel quartiere Rakotis, il maestoso tempio di Serapis, divinità protettrice di Alessandria. Sopra la collina a occidente della colonna di Diocleziano, che tutti chiamano di Pompeo. Affretto il passo, devo gridare di brutto verso l'animale perché torni indietro. Mentre mi avvicino all'incredibile costruzione a pianta quadrata, comincia a battermi forte il cuore. Sotto al tempio c'è un pronao poggiato su un alto podio. Le colonne del portico sono altissime, con capitelli figurati. Entro dall'ingresso principale e non posso fare a meno di provare meraviglia dinanzi allo spettacolo offerto dalle statue di marmo e avorio pregiato, dai lampadari d'oro, dagli oggetti ornamentali in alabastro e dalle preziose pitture votive. C'è una scala di marmo di 100 gradini che conduce al tempio vero e proprio, posto al di sopra del portico, completamente decorata di fregi. Sulla sinistra, alla base della scala, un tavolo di marmo retto da colonne scanalate e di porfido serpentino nero. Seduto sopra un seggio di legno dorato, un uomo con la tunica celeste da sacerdote filosofo, intento alla lettura. Alza gli occhi, mi fissa incuriosito. Il suo nome è Olimpio, è molto alto, magrissimo, corti capelli rossi, volto da fanciullo. Mi chiede se sono io Shalim, il giovane che Ipazia sta attendendo. Annuisco e lui mi indica il lato del portico alla sua destra, subito dopo la statua di Atena. Mentre avanzo lungo il colonnato, osservo le pareti dell'edificio tutte tappezzate di nicchie rettangolari, piene zeppe di rotoli di papiro e di codici di pergamena. Sono migliaia di migliaia, sembrano non avere fine. Dalle nicchie proviene un odore particolare, grave, ma non fastidioso. Alla distanza di una ventina di piedi, uno dall'altro, grandi tavoli di marmo e sgabelli di legno con sedili di pelle. Su ogni tavolo una lucerna. Ogni tanto, poggiate alle pareti costellate di loculi, delle scale per poter accedere alle nicchie situate più in alto, mentre a quelle inferiori ci si può accostare per mezzo di 3 scalini in marmo. Proprio alla fine del porticato che sto percorrendo, fa capolino un debole fascio di luce. Mi avvicino, riconosco la voce limpida e delicatamente sonora di Ipazia. Mi affretto, giro l'angolo e la vedo, i capelli ribelli sciolti sul collo. S'accorge di me, solleva gli occhi illuminati d'azzurro, il suo sguardo brilla di sollievo. Benvenuto, benvenuto alla biblioteca, Shalim. Vieni a conoscere mio padre Teone. Questi solleva il capo. Gli occhi verde-marrone sorridono alla luce del trilume. Bene, figliolo, Ipazia mi ha parlato di te. Possiede una voce profonda, della stessa sonorità di quella della figlia. Ipazia mi ha detto che stai studiando il modo per portare altra acqua dal Nilo. Io mi sono arreso molti anni fa. Raccolsi i risultati delle mie ricerche in un testo che ho intitolato Sulle inondazioni del Nilo e potrai consultarlo quando vuoi. Ipazia, seduta accanto a lui, mi invita a liberarmi del borsone. Teone attende che io abbia finito per continuare Perché vuoi studiare, figliuolo? Mi faccio coraggio, il suo sguardo bonario mi aiuta. Vorrei fare anch'io qualcosa per migliorare il mondo, signore. E solo codici, rotoli e gente di scienza come voi può riuscirci. Non ti piace il mondo così com'è, Shalim? E con una mano tremante sfiora il suo cranio calvo. No, signore, non mi piace per niente. Sono passati 700 anni dalla morte del fondatore di questa città. So che Alessandro Magno faceva le guerre, ma vedeva lontano, fece costruire il Museion per far sì che la scienza e la filosofia mutassero il destino dell'umanità. Sembrava che il suo progetto si stesse realizzando, ma ora siamo giunti a un bivio, mi pare di aver capito. E persone di scienza come voi possono proseguire il cammino tracciato da Euclide, Apollonio, Archimede, Iparco, Diofanto. Ma avete bisogno di aiuto, io sono qui, perdonatemi l'alterigia per questo, e tiro un sospiro di sollievo per essere riuscito a dire quello che pensavo. Mi sforzo di non guardare Ipazia, ancora non riesco ad abituarmi alla sua presenza. Bene, figliolo, mi pare che tu abbia le idee ben chiare. Non a caso sei il figlio di Isidoro. Dobbiamo risolvere un problema urgente ed è meglio che lo risolva una persona estranea al nostro centro studi. Una volta sistemato il tutto, ti unirai agli altri allievi. Con l'indice e il pollice di una mano si accarezza il naso affilato. Casa nostra è nel quartiere Brucheon, vicino a quello ebraico. C'è una stanza libera. Se tu e Isidoro siete d'accordo, puoi occuparla. Mi decido ad affrontare lo sguardo della giovane studiosa. Sorride, è felice della proposta di Teone, me lo dice. I suoi occhi sono impregnati di quel cielo da cui sta cominciando a piovere la prima luce del mattino che filtra dall'entrata principale. Teone prega Ipazia di mettermi al corrente del progetto. Ipazia si alza e mi chiede di seguirla. Giungiamo alla fine della navata. Svoltiamo a destra e proseguiamo lungo il portico situato alle spalle dell'entrata principale, sempre circondati da rotoli di papiro e codici di pergamena. Ed è verso i tre quarti della navata che Ipazia si infila tra una colonna e la parete. Lo spazio è esiguo, ma lei è esile. Si intravede sulla parete di marmo il disegno in rilievo dei ciclopi che forgiano le armi ad Achille. Preme a lungo sulla parte inferiore della scultura. E una porticina si schiude verso l'interno. Ipazia scivola nel buio, ma prima mi chiede di prendere una delle lucerne sopra un tavolo. Appena fatto, gliela porgo. Lei chiude dall'interno dopo avermi consigliato di provare da solo. Così, esercitando una pressione più forte di quella che pensavo, riesco ad aprire anch'io. Ipazia è lì, in attesa, con la lucerna accesa in mano. Mi prega di richiudere e di seguirla. Il cunicolo è in discesa. Gli scalini sono alti e stretti. Ci muoviamo a fatica, ma in breve finiamo di scendere. Ipazia mi precede. Non c'è umidità. Lei si muove a suo agio nella fitta rete di cunicoli pieni di loculi quadrati che contengono codici e rotoli. Shalim, vedi, qui ci sono i testi più rari e antichi, eppure non sono questi i più importanti. Vieni, e mi prende per mano. Le sue dita trasmettono un'energia impalpabile, è come se fossero mosse da una forza segreta. Le pareti delle gallerie ovali sono di pietra grezza, ma ora la giovane mi trascina in un cunicolo rettangolare, con le pareti levigate, anche queste tappezzate da loculi quadrati pieni quasi esclusivamente di rotoli. Ipazia mi porge la lanterna, afferra un rotolo e lo apre al barlume del lucignolo. Guarda, Shalim. Questo è uno studio sull'atomismo di Democrito e risale ad almeno 400 anni fa. Dopo l'incendio appiccato da Giulio Cesare alla biblioteca madre, quella situata nel Museion. Questo, Shalim, è ciò che mi interessa di più. Se riusciamo a leggere in un mondo estremamente piccolo, allora potremo giungere fino alle stelle. I suoi occhi fiammeggiano. Shalim. In questo cunicolo ci sono i commenti, gli elaborati, il frutto degli studi e delle ricerche portati a termine nel Museion. E alcuni commenti e studi su un trattato di teoria atomica dello scienziato fenicio Moco, vissuto molto prima di Leucippo e Democrito, e quelli sulla teoria eliocentrica di Aristarco di Samo e chissà quanti altri studi ci sono in giro per il mondo, ma per adesso dobbiamo spostare questi. Siamo sotto un tempio pagano, Shalim, il tempio più importante di Alessandria e dell'intero Egitto. È troppo rischioso lasciarli qui. Mi pone il rotolo davanti agli occhi. Dove, Shalim? Dove li nasconderesti? E come? La sua voce vibra ansiosa. Ci stavo pensando da quando siamo scesi qui sotto e credo che sia il posto ideale. Quale luogo può offrire delle garanzie concrete? Il faro, la costruzione che finora ha resistito a ogni intemperie. Da qualche parte, in qualche anfratto, lì c'è sicuramente un rifugio per mettere al sicuro tutto il sapere racchiuso in questi rotoli. Oh, la mia mente vaga tra atomi e stelle e spesso finisco per perdere il contatto con la realtà che mi circonda. Potresti avere ragione, amico mio, potrebbe essere il luogo ideale. Ai dettagli penseremo dopo, adesso andiamo a comunicarlo a mio padre, ne sarà felice. E riprende la lucerna in mano e mi trascina tra i cunicoli, canticchiando una melodia sconosciuta. Mentre io non riesco ancora a credere che tutto questo sia reale, che stia accadendo a me, proprio a me. Quando riemergiamo dalle viscere della terra, i primi raggi di sole saettano dall'entrata principale del porticato. Le pareti di marmo li riverberano e persino i ciclopi sorridono mentre calano le possenti sferzate sulle armi dell'invincibile Achille. Quando mi allontano dal tempio di Serapis, il sole è ancora alto, ma la calura viene mitigata dai venticelli etesi che giungono dal mare. Passo davanti alla colonna di Pompeo, di granito rosso, lascio la collina Arrakotis e comincio a percorrere via del Soma. È un viale largo, oltre 200 piedi, fiancheggiato da colonnati di marmo e da palme che svettano altissime nel cielo. Una strada di cui non si vede la fine, attraversa tutta la città e termina al porto grande. Ho incominciato a percorrerla all'altezza di via Dinocrate. Nel viale c'è un passaggio continuo di carrozze e di cavalli, nei due sensi. Sotto i colonnati ci sono le entrate dei palazzi più lussuosi di Alessandria, tribunali e studi di avvocati, ma anche negozi di stoffe, di profumi, di vetro e di ceramiche. E ogni tanto quei luoghi fantastici da cui proviene un effluvio di miele, dove si vendono i dolci più buoni del Mediterraneo. Si incontra gente di tutti i tipi. E io, che vivo fuori città, dalle parti di Canope, l'ultimo rigagnolo del delta del Nilo, osservo con curiosità questa incolore moltitudine di razze che a malapena riesco a distinguere dai vestiti, in quanto la maggioranza veste con la solita tunica grigio-bianca e la cintura di corda alla vita. Anche se negli ultimi tempi il latino si sta diffondendo sempre di più, gli alessandrini veri si riconoscono non solo per il tipico modo di parlare, lievemente musicale, con altalenanti sonorità, ma anche perché usano ancora la lingua dei colti, il greco. Ma si ascolta anche un sottofondo di tanti altri idiomi a me incomprensibili. Lascio via del Soma per affrontare l'altra grande arteria, via Canopica. Lontano, verso il porto, sopra i grandi edifici, si vede spuntare in cielo la cima del faro. Al centro del quadrivio, la tomba di Alessandro. Un mausoleo in marmo bianco costituito da un basso podio sormontato da un colonnato su cui si erge una struttura a piramide. Via Canopica, piena di giardini, è praticamente identica a Via del Soma, con gli enormi colonnati su ambo i lati e pullulante di gente che si ferma a bere infusioni, succhi di frutta e vino. E infine centinaia dei 4.000 edifici termali di Alessandria, che negli ultimi tempi, a causa della siccità, sono sempre più cari e sprovvisti del bene più prezioso, l'acqua dolce. E anche lungo queste strade maestre si sente una fastidiosa puzza di fogna che esala dai tombini che fiancheggiano i colonnati. La maledetta siccità dura ormai da troppo tempo. Ad Alessandria deve arrivare più acqua dal Nilo, altrimenti occorrerà portare il mare direttamente nelle case. Attraversate le mura della città mi dirigo verso il quartiere ebraico, una zona in cui subito si nota che le case non sono alte come quelle all'interno delle mura, anche se sono comunque curate. Le pareti esterne bianchissime, senza crepe, e vasi di fiori accanto alle porte. Passo davanti alla sinagoga e proprio alla fine di un ridente giardino che fiancheggia il tempio inizia la strada dove vive Zev, via della vetreria. Viene ad aprire il mio amico Shai, un giovane della mia età, tozzo, un faccione gioviale, due grandi occhi grigi. M'accompagna dal nonno, mi lascia solo con lui per recarsi al magazzino annesso alla casa, dove sta aiutando il padre Alon a ultimare il carico di combustibile per il faro. Shalim, non dirmi che sei riuscito a produrre un po' di rotoli. E mi stringe le mani con le sue scarne e pelose. Gli occhi lacrimosi sorridono. Torna a sedere sulla sedia, accanto al tavolo, pieno di codici. Mi fa accomodare accanto a lui. No, Zev, di papiro nemmeno l'ombra, né per te, né per Teone, né per nessuno. E scuoto la testa dispiaciuto. Tutto quello che restava l'ha comprato il vescovo. Zev si accarezza quel po' di barba bianca che gli appare sul mento. Come potevano immaginare i nostri avi 4 secoli fa che il luogo scelto per la biblioteca figlia un giorno non sarebbe stato sicuro? Che potevano fare dopo che Giulio Cesare aveva bruciato la biblioteca madre? Annettere al più grande tempio religioso era la scelta più oculata. E il Serapeo era il luogo più sicuro, direttamente sotto la protezione di Serapis e di Atena. E scrolla i radi capelli bianchi che fuoriescono dallo zuccotto. La sua voce, normalmente dolce e sommessa, adesso è grave. È successo qualcosa, Zev? Temo di sì, ragazzo mio. Proprio ieri mio figlio Alon al porto ha sentito che l'imperatore sta preparando un altro editto che potrebbe togliere al nostro paese e alla nostra città i privilegi di cui abbiamo sempre goduto. Privilegi, capito, Shalim? Il privilegio di poter pregare il nostro Dio. Il suo sfogo è un ghigno intriso di amarezza. Si dice che stia preparando un'intensificazione della persecuzione verso i pagani e anche verso noi ebrei. Non si sa in quale forma. Se succedesse veramente, vorrebbe dire che la biblioteca può correre dei pericoli. E gli poso una mano sulla fragile spalla. Ti ho contagiato, ragazzo mio. Anche tu tremi più per la biblioteca che per templi e sinagoghe. Ma con l'aria che tira, forse ha fatto proprio bene Isidoro a battezzarti. Zev, a me la figura di Cristo piace veramente. E così pure i Vangeli, ma il cristianesimo dovrebbe essere una pratica di vita. Mentre così non è. Zev m'offre in dono un sorriso. Ragazzo mio, tu appartieni alla specie di persone come me, tuo padre, Teone, Ipazia, tutte quelle che per secoli e secoli in questa città hanno saputo separare la ragione dalla religione, anzi più che separare sono riusciti a trovare un'armonia. Zev respira a fatica. La sua corporatura gracile e malaticcia sembra rinascere. La cosa più grave di tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi, ragazzo mio, è la conversione di Agostino. Qualche mese fa è stato ordinato sacerdote. Gli parlai alla biblioteca 2 anni fa in un seminario, durante il quale fu proprio lui a lanciare il progetto di un'enciclopedia delle arti liberali. Una capacità di elaborazione del pensiero umano incredibile. Solo Ipazia riusciva a tenergli testa. Una ragazza di 19 anni a un uomo di 35. Zev, con un gesto lentissimo si gratta la rada barba sul mento. Individui come Teofilo da soli non possono fare niente. Sono combattenti, fanatici, spietati, ma non sono in grado di portare avanti un grande progetto, un programma politico che possa governare il mondo. Gente come lui ha bisogno degli intellettuali, di coloro che hanno la capacità di elaborare un disegno che possa durare secoli, millenni. Teofilo ha bisogno di Ambrogio, di Agostino, di Giovanni Crisostomo, così come Ambrogio, Agostino e Giovanni hanno bisogno di Teofilo. Come io ho bisogno di te, Zev, e gli prendo le mani tra le mie. E lui è felice che le mie dita calde e forti racchiudano le sue, piccole e tremule. Gli occhi lacrimosi si schiudono a un sorriso. Tu e Ipazia, assieme alle altre allieve e allievi del centro, rappresentate l'ultimo baluardo che la ragione può opporre all'avanzata della religione, ovvero di coloro che si stanno appropriando di una dottrina pura per allearsi con il potere e l'ingiustizia per sottomettere i popoli. Siamo in pochi, Shalim, ma abbiamo il dovere di lottare. Non siamo nati in un posto qualunque del mondo, noi due, così come Teone e Ipazia, così come Nascemmo ad Alessandria d'Egitto, dove per 7 secoli si è indagato, per la prima volta nella storia del genere umano, sul bene più grande che Dio ci ha dato, la ragione, per cui abbiamo una responsabilità che altri e altre non hanno. E quindi, amico mio, alza le tue giovani natiche da quella sedia, vai da mio figlio Alon e da mio nipote Shai, carissime creature, ma capaci di elaborare solo progetti attinenti solidi, oro e argento, e adempi a quanto hai obbligo di fare. Gli porgo un bacio sulla chippa che puzza di sego e corro a cercare Alon. A Shai e al padre racconto quasi la verità. La produzione dei fogli di papiro è ferma. Ogni tanto faccio qualche lavoretto per te o nei pazzi alla biblioteca, ho bisogno di lavorare. E allora Alon mi propone di aiutarlo nelle operazioni di rifornimento di combustibile del faro, nel trasporto della resina. Se riuscissi a farcela da solo, loro potrebbero partire per l'Oriente alla ricerca di qualche grosso carico di nafta. Da un po' di tempo a questa parte, le autorità cittadine dicono che si spendono troppi soldi per tenere in funzione il faro. Il prezzo dell'olio e della resina è aumentato molto nel corso degli ultimi 2 anni. Stiamo lambendo il canale, sfociamo nel Porto Grande e lì, sull'isola davanti a noi, il faro. Un'opera incredibile, costruita 7 secoli fa, è alto, quasi uno stadio. È la statua del dio Poseidone, il dio del mare, posta sulla sommità. È impressionante. La parte alta del faro, che si staglia nell'oro della giornata di sole, è attorniata da stormi di gabbiani. Non vedo l'ora di arrivare a destinazione, di arrampicarmi, di frugare in ogni angolo. Raggiungiamo l'eptastadio. Percorriamo l'istmo che collega la città all'isola di Faros, torniamo verso oriente, passiamo davanti al tempio di Iside Faria e finalmente ci fermiamo dinanzi all'entrata del faro, davanti al cortile colonnato. Tutta la costruzione è in marmo bianco ed è composta da 4 piani. Sotto il cornicione del primo piano, rettangolare, ornato da figure di tritoni, a grossi caratteri di piombo la scritta Sostrato di Cnido, figlio di Dexifane, agli dei salvatori per i marinai. Le guardie cittadine riconoscono Alon e Shai e ci lasciano passare. Io cammino con il naso in su, anche se ci sono stato qualche volta per delle consegne di fogli. L'effetto è sempre lo stesso. Fa impressione, non si scorge la sommità del faro. Attraversiamo il cortile sotto le colonne, ci dirigiamo verso un'entrata secondaria. Alon ferma l'animale, ognuno di noi prende un'anfora, sistemandosela sulla schiena, usando una speciale cintura di cuoio, costruita proprio per quest'uso. E le portiamo al centro della scala spirale, dove è sistemato un montacarichi idraulico che può contenere 4 anfore. Alon resta in basso mentre io e Shai cominciamo a salire per la scala in pietra e mattoni, le cui pareti sono tappezzate da rilievi in diorite egiziana, raffiguranti stelle, costellazioni e mappe geografiche, molto ampia e lenta per attenuare la fatica. Riusciamo a inerpicarci sulla torre quadrangolare. Il primo piano, ornato di finestre, dove si trovano le 300 stanze degli armatori che costruiscono ed equipaggiano intere flotte mercantili, poi su per quella ottagonale, dove ci sono gli armatori della flotta imperiale, e quindi sulla torre circolare fino a raggiungere le fornaci, proprio sotto la gigantesca statua del dio del mare. Poco dopo appoggiamo le anfore alla parete e mentre Alon, che ci ha raggiunti, comincia a versare la resina nei grandi contenitori, dove subito dopo il tramonto comincerà a bruciare, Shai mi porta al piano di sopra, dove è situato l'osservatorio astronomico. Ci sono gli specchi diurni, enormi. Fa caldo nonostante la brezza. Fuori i gabbiani stridono nel vento. Le lingue di sole vengono catturate e riflesse in ogni direzione. Shai mi dice di guardare con attenzione, gira lo sguardo all'orizzonte, riesce a individuare qualcosa e me lo mostra. Nettissima si scorge la sagoma di una nave verso oriente. Eppure qualche momento fa, al piano di sotto, ad occhio nudo, ciò non era possibile. Un sistema di lenti per vedere lontano. Mi giro su me stesso, osservo la mia Alessandria. Riesco ad abbracciare quasi tutti i 4.000 palazzi, il giardino zoologico, le 4.000 terme, i 12.000 giardini e i 400 teatri. e il mio sguardo percorre il viale del Soma fino all'immensità azzurra del lago Mareotide. E lì, alla mia sinistra, lontano, si scorge anche Canope. Alon ci chiama, ha finito di versare olio e resina, deve recarsi dal prefetto, s'accorge della mia curiosità e del mio entusiasmo e allora mi lascia assieme a Shai, dicendogli di mostrarmi tutto a patto di non entrare negli uffici dei piani inferiori. E così Shai ed io prendiamo ad esplorare ogni angolo della costruzione. Quando ormai è la dodicesima ora, siamo ridiscesi alla base del faro. Siamo stati sui giardini dell'area ottagonale, abbiamo visitato alcune sale e la scuola di guerra. Shai mi ha fatto conoscere dei soldati, amici suoi, che ci hanno placato la sete offrendoci una buonissima tazza di idromele. Siamo giunti al piano terra, abbiamo perlustrato tutta la zona protetta dal colonnato, dove ci sono due piccoli cimiteri. In quello posto subito all'entrata, a occidente, riposano le salme dei marinai di Alessandria, mentre alle spalle, a oriente, c'è il cimitero dei bambini e delle bambine. Il giardino è disseminato di anfore bitronco coniche. Hanno la stessa forma delle nostre. Shai mi spiega che i corpicini vengono inseriti nella pancia delle anfore. Se ne taglia una finestrella, vi si adagia la povera creatura e si richiude con l'intarsio di terracotta. Ci soffermiamo a leggere qualche nome inciso sulle anfore: Antemio, Claudia, Papirio, Scauro, Dario, Teodora. Attraversiamo l'istmo dell'Eptastadio, lasciandoci alle spalle l'isola di Faros. Alla nostra destra un tramonto mozzafiato, il sole rosso viene inghiottito dal mare che si sta incendiando di fuoco con uno sfavillio di sfumature purpuree e dorate. Sono emozionato, il mio cuore batte perché credo d'aver trovato il luogo adatto. Mentre Shai tornava al terzo piano della torre ottagonale per andare a ritirare la paga del mese di giugno, io mi sono messo ad annusare in giro, frugando negli angoli più bui, fin quando, alle spalle di alcune tombe in completo stato di abbandono, dietro un macigno con un rilievo incompiuto, coperto di muffe, raffigurante l'accecamento di Polifemo, mi è parso di scorgere una grata in ferro tutta arrugginita. Mi è costata una fatica terribile accedervi e liberarla, ma alla fine, dopo aver tolto il macigno e la terra che la bloccava, ci sono riuscito. Con una lucerna accesa mi sono intrufolato nel cunicolo e sono sceso, un altro cunicolo, un altro ancora, sino a una grossa caverna da cui partivano una serie di altre gallerie. Ho avuto paura di perdermi, ne ho affrontata una sola per qualche cubito e lì ho cominciato a intravedere le basi delle colonne portanti del faro. Ero circondato da muffa e umidità, era un luogo spettrale, misterioso, disseminato di pietre, legno fradicio, scheletri ammonticchiati, nicchie, nugoli di topi che squittivano, un frantume di ade. Un luogo misterioso, inaccessibile, da cui sembrava saltar fuori da ogni angolo Cerbero. Invece di ripercorrere il lungomare, attraversiamo il quartiere Ebrugion, passando davanti agli obelischi di Cleopatra, ognuno dei quali è poggiato su quattro enormi granchi metallici, e sulla cima una statua di Hermes. Nella stessa piazza, di fronte agli obelischi, sorge il maestoso Cesareo con porticati, ricco di pitture, statue e giardini. Poi passiamo davanti al Teatro Grande e finalmente arriviamo in Via del Sole, al verde spiazzo che accoglie la casa di Ipazia e Teone. Saluto Shai, dandogli appuntamento a dopodomani. L'uomo che mi apre deve avere una cinquantina d'anni, piccolissimo di statura, completamente calvo e glabro, orecchie a sventola, naso a uncino. Gli dico che sono atteso da Ipazia e Teone, mi fa entrare senza pronunciare una parola. Chiude la porta e mi precede nella penombra del vestibolo che odora di spezie e di vino. Tutta la casa è illuminata da lucerne a olio, appese alle pareti. Da un atrio, disseminato di piante di papiro, passiamo al tablinio e quindi a un giardino traboccante di fiori. Le pareti del peristilio sono tappezzate di mosaici colorati, raffiguranti scene di vita marina e fluviale. Finalmente, dal corridoio, l'uomo mi introduce in una stanza alla nostra sinistra, rivestita di nicchie colme di codici e papiri. I pazzi e Teone alzano gli occhi dal foglio che hanno davanti a sé, mi sorridono, mi fanno accomodare. Accenno con fare guardingo al piccolo uomo, ma lui sta già chiudendosi la porta dietro le spalle. Oh, non avere timore, Shalim, possiamo fidarci di Epicrate. Ci sente poco, parla e capisce solo un po' di latino, di greco nemmeno una parola. E Teone serra le labbra con il più affettuoso dei sorrisi. Non tenerci in ansia, Shalim. E i pazzi attormenta il papiro che ha davanti a sé con falangi impazienti. Alla base del faro, sotto il colonnato, c'è il cimitero dei bambini e delle bambine. I corpicini vengono introdotti nelle anfore in cui sono stati praticati dei fori. Sono queste le tombe. È un luogo rispettato da tutti, non c'è niente di più prezioso che possa attrarre l'attenzione di qualche malintenzionato. E dal cimitero, tramite una botola nascosta, si può accedere ai sotterranei, una località segreta e misteriosa che metterebbe paura al più coraggioso degli eroi. E non solo. Come forse sapete, nel faro può entrare solo chi ci lavora e io, a partire da dopodomani, svolgerò i compiti di Alon e di Shai, ovvero rifornire il faro di olio e resina. Scommetto che ogni giorno porterai qualche anfora in più e queste anfore non raggiungeranno mai le fornaci del faro e che tu non hai paura dell'Ade. Un sorriso guizzante d'arguzia le accende i bellissimi lineamenti. L'unico problema è che dobbiamo affrettarci. Anche Alon ha sentito dire che l'imperatore sta preparando un altro editto che probabilmente peggiorerà l'attuale situazione e questo può accadere da un giorno all'altro. Teone scuote il capo, passandoci sopra una mano tremula. Un ottimo lavoro, ma quanto spreco di energie. Gente come noi dovrebbe pensare solo a studiare. Hai bisogno di qualcosa, figliolo? Oh no, signore. Alon mi dà carro e asino per il trasporto. Abita non molto lontano da qui, oltre le mura, all'inizio del quartiere ebraico. Oh, benissimo. Suppongo che tu abbia fame. Epicrate è un ottimo cuoco. Occuperai la stanza accanto alla sua. Il bagno è proprio di fronte alla tua stanza. E, unico lusso di questa casa, c'è l'acqua corrente depurata con aceto di prima qualità. Con un sistema di cassoni posti sopra la terrazza e delle pompe che una volta alla settimana, sotto le potenti pedalate del buon Epicrate, vi riversano l'acqua del Nilo. Io vi lascio, bevo una tisana e vado a riposare. Che la notte ti porti tanta pace. E mi sfiora il capo con un gesto pieno d'affetto. Poi porge un bacio sulla fronte della figlia e s'allontana, schiena ricurva, trascinandosi a fatica. Sei molto stanco, Shalim? Mi chiede Ipazia, mentre sta infilando i papiri sparsi sul tavolo in una delle nicchie di legno della parete. No, Ipazia. Bene, allora, vieni, ti mostro la tua stanza. Poi ceniamo. Io assaggerò una spirale dolce al formaggio e tu, che suppongo non sei vegetariano, potrai saziarti con del capretto partico che, a detta di mio padre, nessuno sa cucinare meglio di Epicrate. E visto che anche questa sera non c'è la luna, dopo andiamo sulla torre a dare uno sguardo al cielo. E mi porge un trilume, dedicandosi poi a raccogliere dietro la nuca i capelli ribelli. Al centro del giardino svetta una piccola torre quadrata, ammantata di piante rampicanti. Per raggiungere la sommità, che sovrasta di una trentina di piedi il tetto della casa, bisogna salire una scala a chiocciola interna. Ipazia mi dice che, come osservatorio astronomico, non è proprio l'ideale, che ogni tanto lei e il padre si recano sul belvedere del parco di Pan, da dove la vista del cielo è eccezionalmente limpida, con l'eccezione del versante nord, a causa della scia luminosa del faro. Adesso la mano destra di Ipazia sta frugando nel firmamento. L'indice, sottile, delicatissimo, è mosso da un'energia misteriosa mentre mi mostra Auriga, Perseo, Andromeda, Pegaso, Cassiopea, Orsa maggiore e minore. Il cielo per lei è un libro aperto. Non riesco ad abituarmi alla sua presenza. Resto impalato, mani artigliate al braccio di un discobolo di bronzo, inchiodato dalla sua voce. Fra tutte le scienze, che posto occupa nella tua vita l'astronomia? Mi chiede, il viso rivolto verso le stelle. Oh, da questa notte uno dei primi. Sei riuscita a rendere tutto estremamente semplice. Zeve, bravo, ma non hai il dono di trasmettere i concetti scientifici con semplicità come fai tu. E non mi stanco di ammirare il suo profilo perfetto, il naso non precisamente greco, così piccolo, le sue labbra dal taglio sottile, sempre schiuse, lo sciame dei riccioli che danzano disordinatamente sulla guancia e sul collo. La brezza che viene dal mare porta con sé un profumo di irraggiungibile dea che emerge pura dal buio. Ipazia, di che morì tua madre? S'appoggia alla base del discobolo abbandonando la miriade di stelle. La sua voce è addolcita da una vaga tristezza. Teone e i medici non l'hanno mai capito. È successo 10 anni fa, un male improvviso. Le faceva male la testa, un dolore orribile che in meno di 6 mesi se l'è portata via, senza che nessuno potesse fare qualcosa. Un venticello spazza via il silenzio che si è creato fra di noi. La prima scienza non è l'astronomia, ma l'atomismo, Shalim. È l'atomismo la chiave per accedere a tutti i misteri della vita e dell'universo. È con lo studio degli atomi che riusciremo a scoprire la vera natura delle cose. Moco e Democrito avevano intuito tutto, secoli e secoli fa. Ti rendi conto? I loro testi più importanti andarono distrutti nell'incendio della biblioteca madre. Sono certa che ce ne sono delle copie da qualche parte, a Pergamo, Antiochia, Atene, a Tamugadi, forse a Roma, e noi le dobbiamo trovare, Shalim. Ci dobbiamo riuscire. E se non ce la dovessimo fare, ci impegneremo anima e corpo nella ricerca, nell'indagine, e attraverso lo studio degli atomi, dell'infinitamente piccolo, che potremo conoscere tutto, compreso l'infinitamente grande. E alza le braccia al cielo, indicando il firmamento. Con scarti guizzanti, uno stormo di pipistrelli fruga nella notte a caccia di insetti. Un corpo dal pelo morbido mi sfiora un piede, la gatta. La prendo in braccio, le accarezzo la testa. Lei emette un brontolio di pace gioiosa, ma poi solleva il capo, distratta dai passaggi velocissimi dei piccoli vampiri, emette uno strano miagolio mai sentito. Sembra volerci dire qualcosa a proposito di quegli strani uccelli. Ipazia si gira verso di me. Il mese scorso, quando ci furono quelle scosse di terremoto poco prima dell'alba, Teodora, un'ora prima, prese a svegliarci. Piangeva, ci spinse fuori di casa. Io e mio padre abbiamo capito subito, ma è stato duro convincere Picrate. Siamo usciti per strada trascinando fuori altra gente e dopo circa un'ora Alessandria ha tremato con quel boato che non dimenticheremo mai. Come ha fatto questa gattina a sentirlo con tanto anticipo? E torna a inseguire i pipistrelli che scavano solchi invisibili nel buio della notte. E quegli uccelli? Sono ciechi, Shalim, ciechi. Eppure si muovono nell'aria e percepiscono tutto, persino i moscerini di cui si cibano. Come ci riescono? Emettono dei sibili che noi non udiamo? Sia essi che la gatta hanno una parte del cervello più sviluppata del nostro? Mi spiace per Teodora. Quando morirà piangerò, ma esaminerò la sua testa. Devo cercare di capire. E accarezza il capo dell'animale che si piega sotto la dolcezza del gesto. Capisci, Shalim? Noi dobbiamo avere ben chiaro il progetto. Una scienza a 360 gradi dove non esistono argomentazioni primarie o secondarie. Tutto è connesso. Tutto dipende da tutto. Noi dobbiamo scoprire le origini della vita, elaborando un progetto, passando dalla teoria alla pratica, sperimentando ogni formula che abbiamo studiato a tavolino, affinché diventi infinito quello che è finito, cosciente quello che è incosciente, certezza quello che ancora è probabilità. E ci serviremo di qualunque materia, compresa la musica. Ipazia, io suono l'aulos, se può essere utile. Oh, splendido, Shalim! Io suono la cetra. Un giorno proveremo assieme. La sua voce vibra di gioia. Forse è il caso che tu vada a riposare ora. Oggi è stata una giornata faticosa per te e domani dovremo cominciare a preparare l'evacuazione dei testi più importanti della biblioteca. Ipazia ha ragione. Mi sento distrutto dalla fatica, eppure vorrei che questa notte non avesse mai fine.